grande sponsor, grande proposta, sì. Vendiamo, attenzione, l'aeroporto di Linate, mitico, sito su 36.000 metri quadri, incredibile, 307 voli giornalieri internazionali e internazionali. E i bambini si annoiano. No! Fai volare la fantasia! Falle visitare l'aereo! Sì, portami, perché un sorriso per il tuo bambino non ha prezzo! Live and Direct per un'altra puntata di Underground Pusher. Ai comandi dell'astronave c'è il mio amico Gigi Proiettili. Hey yo, bella raga. Al microfono 2, me medesimo, Nino Stereo, in questa piovosa giornata e trafficata giornata, diciamo. La trasmissione sarebbe dovuta iniziare circa mezz'ora fa, ma problemi di traffico e di maltempo ci hanno un po' trasportato. La puntata di oggi, non so se avete visto le nostre pagine social, è dedicata ai Beastie Boys, un gruppo mitico che ha affrontato 3 decenni partendo dagli anni 80, e quindi diciamo la puntata è dedicata a loro. All'inizio, come al solito, mettiamo 2 nuove uscite e la prima traccia che abbiamo scelto appunto per introdurre questa nuova puntata è di Teia, degli OAB, ovvero il blocco di Gratosoglio. Questa traccia si intitola Disoccupato. Metti la tua vita in, va bene, metti la tua vita in rima, metti la tua vita in riga, perdi la tua vita in fila, perdi la tua vita, non è un film fra, metti la tua vita in pausa, mentre intorno il tempo passa, mentre intanto il tempo pressa, ti scappa la vita, ti sfugge la presa, metti la tua vita in mezzo, non capita di dargli un senso, devi sforzarti con ogni mezzo, meno lo trovo e più ci penso. Povero incompreso, la vita ti sposta di peso, la vita va presa di petto, ma dove si prende una vita che aspetto? Disoccupato, disoccupato, disoccupato, chiamo di qua, chiamo di là, occupato, provo 1, provo 2, provo 3, provo 4, provo 5, provo 6, prova te, va, come chiuso in una gabbia a safari, e poi per non pensarci verde ganja, strafatti, è una spirale porta giù e tu ne scendi, tornanti in mezzo agli altri distratti, puoi lasciarti andare, sai quanto è fondo il mare, in fondo che c'è di male, non ci puoi fare molto, o ti puoi incontrare con chi ha il tuo stesso male, fra siamo tanti, tanti da cambiare il mondo, cerca cerca ma non trovi altre risposte, perché cerca cerca non arrivano proposte, manco tuo zio riesce a farti entrare alle poste, ricomincio a girare in tondo come le giostre, giro la città come ste lancette che segnano il tempo che se ne va, ma torno sempre qua, mi muovo senza meta, senza scopo, 30 anni tra poco scoppio fra, ma più tempo sto fermo, più difficile che io mi muovo, ormai sono più apatico di un in coma, ancora penso questa fra è la volta buona, ma non lo è mai, mi ritrovo ancora che suona una base nuova e fa. Metti la tua vita in rima, metti la tua vita in riga, perdi la tua vita in fila, perdi la tua vita, non è un film fra, metti la tua vita in pausa, mentre intorno il tempo passa, mentre intanto il tempo pressa, ti scappa la vita, ti sfugge la presa, metti la tua vita in mezzo, non capita di dargli un senso, devi sforzarti con ogni mezzo, meno lo trovo e più ci penso. Povero incompreso, la vita ti sposta di peso, la vita va presa di petto, ma dove si prende una vita che aspetto? Troppo tempo libero, non sai che farci? Qua non c'è problema bro, stiamo tutto il giorno a farci per comprare la spacci? Han fatto proprio un bel sistema, no? Ti tolgono il lavoro, ti tolgono ogni ruolo, ti tolgono la casa e grosse pacche sulla schiena. Se rubi e protesti vai in galera, ma iniziamo ad essere troppi, a me sembra proprio che tremano. Ma li senti sti politici che han fatto sto disastro? Darci dei falliti, fra, ti sembra giusto? E col casino che succede, col rappano di vestiti, fra, dimmi, ti pare giusto? 10 persone hanno più soldi di quelli di tutti gli altri riuniti, ma dimmi, fra, per te è giusto? I sogni sono finiti, cosa temi di perdere? Ci hanno già preso tutto. E io, questo era Teia degli Overall Blocco, appunto un pezzo molto significativo in un periodo comunque abbastanza complicato e abbastanza difficile per un po' per tutta l'Italia, per Milano e per le periferie in particolare, e quindi lo salutiamo e passiamo al prossimo pezzo, che è tratto da un album di cui appunto discutevamo io e Gigi, che secondo me è molto interessante da ascoltare. Si chiama La promessa non mantenuta ed è di Brenno Itani, e noi abbiamo scelto appunto una traccia in cui duetta con Franco 126, appunto della 126 di Roma, e la traccia si chiama Trastevere versus Mascarella. Ti prendi alle misure, nel mio quartiere girano troppe macchine, chiedili in giro quanti scemi che abbiamo mandato a battere. Fresco lo sa e Franchino fra pure, sono cresciuto quella strada, mi ha fatto le ossa dure. Quello che ho dato a sta città non lo so proprio se l'ho avuto indietro. Un po' barcollo, sfioro le vetrine contro il vetro. Vuole una mamma che ubriaca, sversa il vino e piange. Dice fai il bravo, vai da solo che oramai sei grande. E ci perdiamo tutto in strada, dai denti ai sentimenti. Ormai queste storiacce c'hanno i sedimenti. Insegnamenti sono crolli strutturali, parole è quello che vali. Palestra dentro i locali, e se le scritte dentro i cessi poi si sono cancellate. Certa merda nel mio cranio è difficile che andrà via. Se il cervello ti imprigiona non le togli quelle grate. Ci convivi come chiodi, vivendo in democrazia. È sempre bello quando ci beviamo, davvero un sacco ce lo ricordiamo via messaggio. Sorrido fatto e invoco mascarella contro mano, le ultime due bow. Buongiorno di mia madre, rido, buonanotte. La mia scarpiera sembra un parco macchine, sotto la pioggia con un sole restiamo quelli da battere. Fra mascalotta e trastevere pure, c'è di per strada, vieni qua che ti prendi alle misure. Nel mio quartiere girano troppe macchine, chiedili in giro quanti scemi che abbiamo mandato a battere. Fresco lo sa e Franchino fra pure, sono cresciuto quella strada, mi ha fatto le ossa dure. In tasca una ganda contata, al bangla la birra scontata, in piazza una matta scocciata, guarda che non è giornata. Se è bene o male me la so giostrata. Passo alla snai, butto una 20 per una giocata. Sto appostato qua sotto, in piazza fa salotto. E l'aria fredda mi si infila fin sotto il cappotto. Con il caldo d'agosto, o se piove a dirotto. Una sirena, ma è solo il 118. E intanto bevo stappa una bottiglia con i denti. 1, 2, 6, lo sai che non facciamo complimenti. Ci vedi al giro sempre con le fasce sorridenti. Siamo pischelli svegli anche se abbiamo gli occhi spenti. Sono le 5, giro solo a vicolo del 5. Se dice picca c'ho i fratelli a cui battere il 5. E spesso ho sbattuto la testa invece di capire i nostri nomi sopra il legno di quelle panchine. La mia scarpiera sembra un parco macchine, sotto la pioggia con il sole restiamo quelli da battere. Fra mascalossa e trastevere pure, c'è di per strada e via di qua che ti prendi alle misure. Nel mio quartiere girano troppe macchine, chiedili in giro quanti scemi che abbiamo mandato a battere. E questo era Trastevere versus Mascarella. E quindi finita l'intro italiana, voliamo negli USA. E quindi partiamo con il pezzo forse più iconico di sempre dei Beastie Boys, Fight for Your Right to Party. You gotta fight for your right to work. Speriamo che abbiate riconosciuto questo pezzaccio, perché insomma è un pezzo estremamente esageratamente figo. Spero che abbiate demolito la vostra stanza, se eravate nella vostra stanza, perché più o meno quello è il primo impatto, perlomeno insomma tutte le persone con un retaggio skater potranno capirlo. In effetti era una traccia che pompavano tantissimo ai contest per far caricare la gente. E allora facciamo un po' di cronistoria appunto del nostro gruppo di oggi, i Beastie Boys. Sostanzialmente inizialmente, come avete potuto sentire dalle chitarrone, era un gruppo hardcore punk con venatura sperimentale che si chiamava The Young Aborigines, Aborigines, insomma non ho una pronuncia inglese eccezionale. E sostanzialmente in questo nucleo originario c'era Mike D, che poi appunto diventò un componente dei Beastie Boys. Sostanzialmente il bassista di questo primo gruppo abbandonò il gruppo per fare una carriera solista, entrò MCA, e poi una volta che anche il batterista degli Young Aborigines lasciò il gruppo, entrò AD Rock. Quindi sostanzialmente il gruppo, che era un quartetto, era composto da Mike D, MCA, AD Rock e poi appunto John Barry, che fu lui che inventò il nome Beastie Boys, poi sostanzialmente lasciò il gruppo molto prima che la band avesse successo a livello commerciale. Quindi diciamo questa è un po' la nascita del gruppo, che inizialmente appunto era un gruppo punk, poi cominciò a sperimentare sonorità hip hop nel 1983, e questo è il prossimo pezzo appunto che vi proponiamo. Si chiama in omaggio a una pubblicità che sponsorizzava dolci, il cui personaggio si chiamava Cookie Pass, appunto hanno dedicato loro una canzone. Quindi la prossima canzone si chiama appunto Cookie Pass. Yo, I said I'm calling you, babe. Yo, B, answer the phone. Yo, B. May I help you? Yes, what's your name? Hello? Hello, man, you got Cookie Puss's number? He's my supervisor, he'll help you. Yo, man, where's the supervisor at? I got the number anyway, baby. Damn, bitch, hang up on me. Pussy crumbs are making me itch. A cookie puss? Hey! A cookie Maybe I should scratch. My sister's name was And my mother got to call us for dinner and she went, pussy crumbs? What are pussy crumbs? Questo era Cookie Pass, che fu un singolo anche di discreto successo, diventò una sorta di hit underground da club. Come avete potuto notare, non c'era rap, era solo una parte strumentale. Dopo il successo di questa traccia, appunto, il gruppo cominciò a inserire il rap nei loro set, e assunsero anche un DJ che era uno studente universitario all'epoca. Si tratta di Rick Rubin, che poi sostanzialmente, assieme a Russell Simmons, fondò la Def Jam, quindi una delle più importanti etichette hip hop di sempre. Quindi sostanzialmente, dopo aver iniziato questo rapporto con Rick Rubin come DJ, diventò sostanzialmente il loro produttore, e appunto loro apparirono sulla seconda uscita ufficiale a nome Def Jam, con la traccia intitolata Rock Hard, che appunto è la prossima traccia che vi proponiamo. Real rock beat show of victory. Light claps of thunder from a cumulus cloud. Double up of the beat and make it real loud. Loud, loud, loud. A bit stretchy. Heavy metal tension running through your blood. Too much rock, step off the pot. Too much treble, man. Questo era Rock Hard, e questi erano i Beastie Boys sul riff iperfamoso di Back in Black degli AC/DC. Dopo il successo anche di questo singolo, i Beastie Boys diventarono la band di supporto, niente proprio di meno che del The Virgin Tour di Madonna, e poi si unirono al, al roster appunto di artisti di supporto al Raising Hell Tour dei Run DMC, quindi assieme a Houdini, LL Cool J e Timex Social Club, e per appunto questo tour iniziarono a collaborare con DJ Hurricane, un DJ appunto che collaborò con loro per tantissimo tempo. Quindi diciamo i tempi erano maturi per il primo album, Licensed to Ill, uscito nel 1986, 15 di novembre per la precisione. Subito raccolse delle recensioni positive. Rolling Stone titolò: "Tre idioti hanno creato un capolavoro". E, insomma, è diventato uno dei dischi di più grande successo e anche uno dei dischi più venduti nella storia del rap. È stato il primo disco hip hop a entrare in cima alla Billboard Top 200, quindi proprio una classifica di vendite ufficiale per chi non la conoscesse. È stato 5 settimane al top, quindi molto importante, e anche è arrivata al numero 2 nella Top R&B chart, quindi insomma prendendo due posizioni di prestigio in due classifiche. E appunto è stato anche venduto molto molto rapidamente. Fate conto che insomma rapidamente vendette 9 milioni di copie, ormai siamo arrivati al disco di diamante, cioè 10 milioni di copie, cioè 10 volte il platino. Quindi per dare un'idea della forza e dell'impatto che ebbero questi appunto tre ragazzi bianchi sull'hip hop. Che cosa c'è da dire? Ci sono usciti moltissimi singoli da questo disco, noi ne abbiamo scelti 3-4. Il primo appunto è un singolo famosissimo che si chiama Girls. Questo era Girls, uno dei singoli più famosi dei Beastie Boys. Proseguiamo con un'altra bomba, una bomba che racconta di una serata, di un concerto pazzesco, appunto tutto pazzo, incredibile, esagerato, e in cui i protagonisti sono un po' sfatti a fine serata, ma non devono addormentarsi prima di tornare a casa loro. Il titolo è No Sleep Till Brooklyn, che è una parodia di un album live dei Motorhead che si chiamava No Sleep Till Hammersmith, e il chitarrista degli Slayer, Kerry King, appare nel video oltre a suonare la super famosa chitarra iniziale. Quindi, come vedete, insomma, è una band che effettivamente ha sempre pescato dal mondo sia rock che dal mondo hip hop. E in aggiunta, per chi non lo sapesse, questa canzone è contenuta in un film trashissimo d'azione di Steven Seagal che si chiama Nico, titolo originale Above the Law, perché effettivamente è il personaggio italo-americano di Brooklyn, ed era anche la musica d'entrata di uno dei miei wrestler trash preferiti, cioè Nunzio. La prossima traccia si chiama No Sleep Till Brooklyn. Sleep Till Brooklyn, appunto, speriamo che vi abbia ricordato gli anni spensierati circa 15-16 anni fa, quando ci guardavamo il wrestling la domenica. Adesso invece il sabato e la domenica tutti i giorni c'è Underground Pusher. Seguiteci in podcast, seguiteci sulla nostra pagina Facebook, seguiteci tramite la pagina di Radio ZM. Ora noi siamo in diretta, poi insomma ci sono anche i vari podcast, registrazioni varie, insomma, sulla vostra radio di quartiere. Cosa c'è da dire su quest'album, oltre a tutto ciò che abbiamo detto? Che è anche bella la parte grafica, perché c'è una cover che appunto raffigura un Boeing 727 con il logo dei Beastie Boys, che sostanzialmente si sfascia sul lato di una montagna e assomiglia, guardando insomma bene la copertina, come a un mozzicone di sigaretta di canna, quindi pressato in un posacenere, ed è una cover che è stata talmente iconica che Eminem ne ha preso ispirazione per omaggiare appunto i Beastie Boys per il suo album del 2018 che si chiama Kamikaze. Noi adesso trasmettiamo appunto l'ultimo estratto da, appunto da quest'album, e poi passiamo ai prossimi. Questo pezzo si chiama Brass Monkey ed è dedicato appunto a un cocktail dall'omonimo nome. Questo era Brass Monkey. Quindi quest'album era del 1986. Passiamo all'album successivo, Paul's Boutique, un altro disco famosissimo che nella copertina ritrae appunto un incrocio di strade a Manhattan. Questo album, contrariamente alla copertina, è stato registrato a Los Angeles. Los Angeles cambiò anche l'etichetta, perché uscì sotto Capitol Records. Sostanzialmente i Beastie Boys avevano perso credito, nonostante il grande successo di Senses to Ill, presso appunto Rick Rubin e il resto della Def Jam, perché venivano ritenuti come appunto dei ragazzi che avevano fatto dei tormentoni ma che non si sarebbero ripetuti per appunto qualità e insomma numero di dischi. Insomma, si riteneva che avessero ormai esaurito la vena creativa, quindi loro cambiarono etichetta discografica, cambiarono città, cambiarono vita sostanzialmente, e appunto crearono un disco sperimentale, facendo insomma un grande sforzo creativo. Venne anche, come dire, ingaggiato un duo, i Dust Brothers, appunto a livello produttivo, perché è un disco che ha un massiccio uso di sample, mi stavo impappinando, e quindi diciamo addirittura in una canzone ce n'è ben 24, quindi diciamo è stato un'operazione che appunto ha richiesto anche questi 3 anni per la sua realizzazione, e appunto è considerato uno dei dischi pop migliori di sempre, anche se inizialmente non fu così così d'impatto. Ovviamente all'inizio, essendo un'epoca in cui venivano lanciati i singoli ma non è che potevi sentire il disco prima di comprarlo, sul successo di Licenza Twitter Will ci furono buone vendite, poi una volta che la gente sentì il disco e si accorse che era qualcosa di diverso, ci fu una sostanziale calma nelle vendite, poi col tempo è stato rivalutato ed è diventato un album multiplatino, stato certificato nel 1999. Quindi diciamo, questa è un po' la storia di Paul's Boutique. Abbiamo appunto scelto delle tracce, vi mandiamo la prima coppia, è Shake Your Rump come prima traccia, e la seconda traccia è Hey Ladies. Michael Diamond. No, mine's Clavin. From downtown Manhattan. Some village. My style's wild, and you know that it's stealing. This snow bag's ripping, and you're doing the ball. Shake your rope. Cutting up the rug. She started cutting up the ain't it bugging her? Questo era Hey Ladies, una canzone dedicata a tutte le signorine. Dicevamo appunto in radio prima con Gigi che appunto sono i Beastie Boys sono un gruppo molto molto molto molto trasversale, essendo, per chi non lo conoscesse, questo gruppo anche un trio di origine ebrea, appunto di Brooklyn, e però appunto si sono sempre distinti anche per avere un certo tipo di impegno sociale. Infatti dichiaratamente MCA ha fatto anche dei testi, insomma, pro femminismo, e appunto quindi prendendo le parti appunto di un discorso appunto per la parità dei diritti, che molto spesso invece come dire, l'hip hop è sempre stato un genere un po' osteggiato, dicendo di essere un genere macista, diciamo, un gruppo che, diciamo, dissacrante ma non macista, per fortuna. E appunto essendo appunto anche un gruppo trasversale, univa sostanzialmente i fan del rock, del punk e appunto i fan dell'hip hop. Il prossimo pezzo che vi andiamo a presentare si chiama Shadrach ed è sempre estratto da Paul's Boutique. And you won't with the sound. questo era What Comes Around, sempre da Paul's Boutique. E appunto, non so se l'avete riconosciuto, insomma, questa, quel grido che faceva è stato poi, insomma, tratto dal, cioè è stato poi, scusate, riutilizzato dagli Onyx per la loro hit più famosa di sempre, cioè Slam. Passiamo al 1992, anno in cui esce Check Your Head, appunto sempre dei Beastie Boys. È un disco particolare perché è stato realizzato sotto la loro stessa etichetta, cioè Grand Royal. Era appunto un'etichetta che il gruppo scelse per autoprodursi. La band era stata anche influenzata in maniera importante da un gruppo olandese, gli Urban Dance Squad, per quanto riguardava la produzione di parti suonate. Quindi Mike D si mise a suonare la batteria, MCA si mise a suonare il basso e Eddie Rock si mise a suonare la chitarra, mentre invece per questo disco in particolare Marcos Nishita, keyboard Money Mark, suonò le pianole. Entrò nel gruppo anche un ingegnere del suono, Mario Caldato Junior, che poi insomma rimase nel team per anni, appunto, quindi come produttore del gruppo. E appunto il disco uscì nel 1992, venne certificato doppio platino anche in tempi abbastanza brevi. È un album che introduce, insomma, una venatura sperimentale con appunto ispirazioni funk e jazz. E anche, però, insomma, c'è anche la radice hardcore punk, quindi insomma un misto di tutto. E la copertina è semplicissima, tra virgolette, perché effettivamente mostra cosa? Mostra i tre su marciapiede con i loro strumenti, ed è un disco anche che si può considerare un precursore, un disco che, insomma, ha lanciato il seme di quello che poi è diventato il genere new metal. Quindi questa è un po' l'introduzione per quanto riguarda Check Your Head. Vi mandiamo in sequenza due tracce. La prima si chiama Jimmy James, la seconda si chiama Pass the Mic. The first song on our new album. musical masterpiece. Hear what I'm dealing with and that's cool at least. What's running through my mind comes through in my walk. Two feelings are shown from the way that I talk. And this is me, y'all. What's up? I pass the mic to D for a fistful of two. The name is D.O. And I don't play. And I can rock a block party to your head turns gray. What you saying? I explode on sight. I like Jimmy Walker. I'm dynamite. And now I'd like to pass the mic to that rock. Come on and do anything you like. I'm the A-D-O-O-C-K in the place with the bass. I'm going all the way. I can't stop. You'll stop. Talk to you. Questa era Pass the Mic. Speriamo che vi stia piacendo, insomma, questo viaggio che stiamo facendo nella corposa discografia dei Beastie Boys. Sicuramente non un gruppo banale, perché ogni insomma, disco aveva la sua particolarità. Da questo disco, appunto, sono stati estratti quattro singoli. Noi ve ne estraiamo tre. Il prossimo che lanciamo si intitola Professor Booty. Hang out with those guys, man. I ain't got nothing to do with those dudes, man. And I saw your female with them too. What's up with her? I've been hearing that she's been giving that stuff out to all them graffiti guys. Yo, shut the fuck up, Chico, man. Go paint three of those mules for some of that ass. Professor, what's another word for pirate treasure? Well, I think it's booty. Booty. Booty. That's what it is. Yes, I got more bounce in the fucking bump. Because I'm motherfucking chunking, I'm in the pocket just like Rainy T. Got some prize of me, so you don't have to wait. Cause I'm the master blaster, drinking up the Shasta. My voice sounds sweet cause it has to. So light a match to my ass cause I'm blowing up. I'd like to thank the people for just showing up. But now I want y'all to move it. Put your point on the floor and just breathe. questo era Professor Booty da Check Your Head, e appunto dal 1992 passiamo al 1994. Il 31 di maggio del 1994, sempre tramite la loro etichetta Grand Royal Records, poi con la distribuzione appunto Capitol Records, esce il Communication, quindi una comunicazione pazza, una comunicazione malata, quarto album in studio del gruppo dei Beastie Boys. La copertina ritrae un tizio, una copertina con una foto in bianco e nero degli anni 60 che ordina a un drive-in con la possibilità appunto di cenare. Non è specificato meglio perché, forse la comunicazione malata è quella appunto del tizio che parla negli speaker per ordinare la cena. Comunque uno dei dischi più famosi probabilmente del gruppo, senza por tempo in mezzo, lanciamo il singolo di lancio di Il Communication, Sabotage. Speriamo che abbiate pogato tantissimo con questo pezzo qua. Noi accogliamo nella nostra stanzetta anche Meme, che è DJ Libero, e che è Mimo Mamo, che è entrato proprio nel momento topico del Pogo Selvaggio ed è stato travolto appunto dal nostro impeto. E che cosa c'è da dire su quest'album, su Il Communication? Come insomma si può sentire, ci sono venature appunto punk, ma poi sono insomma anche venature hip hop, jazz e funk. E l'album quindi continua il trend sperimentale iniziato con Paul's Boutique, e quindi c'è il contributo musicale di Money Mark sempre alle tastiere, Eric Bobo per quanto riguarda le percussioni, che Eric Bobo collaborò anche con i Cypress Hill, e poi anche il contributo vocale di Q-Tip e Bismarcky, a cui appunto facciamo un saluto affettuosissimo, perché in questo momento è ricoverato in ospedale per il diabete. E appunto Questo è stato un album che, come diciamo, ha venduto molto bene. È stato il secondo album che si è piazzato al posizione numero uno della Billboard 200 ed è appunto il loro secondo album a fare il triplo platino. Vi proponiamo questa accoppiata, il prossimo pezzo si chiama Sure Shot e poi c'è Flute Loop. Yes, indeed, it's fun time, fun time. Questo era Flute Loop da Il Communication. Passiamo all'album successivo, passiamo al 1998, il 14 di luglio uscì appunto questo quinto album, appunto sempre rilasciato tramite Grand Royal e distribuito da Capitol Records, che vendete subito bene, circa 681.000 vendite nella prima settimana, e debuttò proprio al primo posto, al numero 1 della Billboard 200, quindi anche lì un impatto molto, molto importante. Per questo album il gruppo vinse 2 Grammy, sia nella categoria Best Alternative Music Album e anche Best Rap Performance by a Duo or a Group, per quanto riguarda uno dei pezzi più importanti appunto dell'album, che si chiama Intergalactic. E diciamo prima con Gigi, il suo disco preferito dei Beastie Boys è L'Onesti, e anche secondo AD Rock, che sostiene che insomma sia stata la loro miglior produzione. Quindi lanciamo senza indugio 2 singoloni. Il primo è Body Moving, il secondo è Intergalactic. Thank you. peace. I want too nice to be me. When on the tough guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I will plot and scheme. Mario C likes to keep it clean. Viaggio intergalattico, speriamo che vi stia piacendo anche a voi questo viaggione, queste sperimentazioni pazze dei Beastie Boys. Vi consigliamo, ne discutiamo prima, di guardare i video dei Beastie Boys. Io e Gigi non siamo dei grandi fan dei video hip hop in generale, però i video che hanno insomma una storia o delle sperimentazioni o delle robe particolari li apprezziamo e li vediamo, li rivediamo, li rivediamo, li rivediamo all'infinito. I video dei Beastie Boys fanno parte di questa categoria, guardateveli. Non abbiamo detto, ma pensiamo che insomma che si senta che il sound è un po' diverso, per da l'Onesti in poi ci fu l'apporto di un DJ mica da ridere, un DJ importantissimo, cioè Mix Master Mike. Cogliamo l'occasione anche per salutare i nostri ascoltatori, salutiamo Sushi, salutiamo Labuzzi, salutiamo Sharby, salutiamo Dre, salutiamo Greta, salutiamo Radio Raim, chissà se ci sta sentendo in questo momento, speriamo di sì, dalla lontana provincia di Monza. Il CD di Ell'Onesti, appunto, il nome di Radio Raim mi ricordano un aneddoto vissuto appunto con il buon Radio Raim a Lugano. Sostanzialmente Radio Raim doveva suonare in questo club discoteca Lugano, c'erano i CDJ già pronti, lui aveva già collegato il PC perché vabbè, di giradischi lì col serato neanche a parlarne, quindi in un locale che proponeva musica commerciale abbiamo trovato questo booklet, questo CD doppio appunto, che era il CD di Ell'Onesti dei Beastie Boys, che insomma era un po' consumato dal tempo, però abbiamo zanzato senza indugio. Poi essendo andati in treno con le ferrovie svizzere, il giorno dopo ci siamo ricordati di avere il CD, ce l'avevo in particolare io, l'avevo messo nella tasca posteriore dei jeans, il CD era a metà, però beh, diciamo è stata una bella avventura. Quindi saluto Radio Raim e introduciamo questo pezzo che appunto parla della nuova formazione del gruppo 3 MCs and 1 DJ. Cause nobody can do it like Mix Master can. Come on, I got the D-double-O style. Here we go again because it's been a while. Do me a favor, don't touch that dial. I rock from Manhattan to the Miracle Mile. My name's Mike D and I'm a lady's choice. I wanna get next to you like Rolls Royce. Royce. You all gather round, I hear my golden voice. So when it's time to run, you know I'll get noise. Cruising like a fanboy on the Glade. He'll tweak your ass across. across the cross lane. So watch your back when he takes the stage. They'll send you off on a naked rampage. Three MCs and one DJ. We be getting down with no delay. Mix Master Mike, what you got to say? Bug out, two, a mic. All the time. Sweet and sour like a tangerine. Fresh like a box of Krispy Kreme. Kenny Rogers' gambler is my gambling theme. Mix Master Mike with the scratch routine. Always updating it in the know. No. You know we break it down, going toe to toe. The bass is moving from down below. And Norton is chilling with Mario. Hey, my name is Ad Rock, I'm a Scorpio. Don't ask me, cause I just don't know. I'm known to mind, I'm known to glow. But don't get mad, cause I got to go. Three MCs and one DJ. We be getting down with no delay. Mix Master Mike, what you got to say? Gotta get down. Mix Master, a cut faster. A mix master, a cut, a cut faster. All top secret and classified. I got a hold of a mic and let the words glide. It's all hypnotic and sanctified. I never wanna let a bad day slip by. Now we be getting stupid in your area. Causing all kinds of hysteria. My beats is sick like malaria. But don't worry, I'll take care of y'all. Me and Adam, Adam and the Mario C. In the studio with the place to be. To all the party people who are happy at three. I mix Master Mike, we're making history. Three MCs and one DJ. We be getting down with no delay. Mix Master Mike, what you got to say? Hey yo, 3 MCs and 1 DJ. Una traccia veramente dal sapore anni 80, veramente dal sapore anni 80. Passiamo agli anni 2000, anzi no, volevo fare una piccola scappatella. Quest'album è uscito nel 98, nel 99 ci furono degli attentati terroristici contro delle ambasciate americane, appunto in alcuni paesi dell'Africa, mi sembra in Nigeria, però non vorrei dire una sciocchezza, e vennero rivendicati da alcune organizzazioni terroristiche islamiche o presunte tali, poi insomma, cioè sono, cioè, riportiamo insomma la notizia più o meno ufficiale, però insomma sappiamo che insomma è molto spesso un paravento questa cosa qui della regione verso appunto cui fare becera politica. Comunque, essendo in quel momento stesso, essendo comunque il gruppo un gruppo di raffigurato insomma da persone di origine ebrea, il gruppo prese una posizione molto netta e anche inaspettata, perché sostanzialmente si schierarono a favore insomma dei musulmani sia nell'hip hop che nella società, dicendo che era sbagliata tutta la propaganda mediatica che si stava facendo contro persone che professavano una fede religiosa semplicemente diversa. Quindi i terroristi, indipendentemente dalla religione o dal paravento verso cui si vuole appunto rivolgersi, insomma esercitavano un'attività negativa. Quindi diciamo, al di là insomma di questa cosa un po' particolare, perché ovviamente non sempre i rapper, specialmente quelli americani, i cani, fanno dichiarazioni politiche, dobbiamo ammetterlo, molti insomma se ne disinteressano. Passiamo al 2004, il 14 giugno esce To The Five Boroughs, il loro sesto album, un album che nella copertina raffigura il panorama di Manhattan con ancora le Twin Towers. L'album ha debuttato subito al numero 1 della Billboard 200 con una vendita di 360.000 copie nella prima settimana, e non è male perché erano già gli anni di Napster e di Emule. È diventato platino anche rapidamente, e il singolo che vi proponiamo è anche il primo singolo penso che io abbia mai sentito dei Beastie Boys, un singolo assolutamente iconico, si chiama Check It Out. Too good, they put me in check. So believe when they say I'm no better than you. Except when I rap, so I guess it ain't true. Like that roll and you just don't stop. Guaranteed to make your body raw. Check it out. What's it all about? What work it out? Let's turn this motherfucking party out. Say, Doc, what's the condition? I'm a man that's on a mission. So, son, you better listen. Fuck in your ass is an electrician. Like a scientist. When I'm applying this method of controlling my mind, like I'm trying to rap the group with blood. Now, hey, nigga, but now what the deal? I didn't know you go for that mass appeal. So I'm calling to Lucci. Some Ora check it out. E ora passiamo a un pezzo un pochino più riflessivo, che tra l'altro è il pezzo preferito dei Beastie Boys, del mio compagno di viaggio. Si chiama An Open Letter to NYC, una vera dichiarazione d'amore verso la loro città, città in cui loro erano tornati a vivere dopo tanti anni a Los Angeles. E parla, è uno storytelling, parla degli attentati dell'11 settembre, di come è cambiata insomma la loro vita. Dear New York, this is a love letter to you and how you brought the city that plans and mans and tests. Since 9/11, we're still living and loving life we've been given. Ain't nothing gonna take it away from us. We looking pretty and gritty, cause in the city we trust. D in New York, I know a lot has changed. Two towers down, but you're still in the game. Home to the many, rejecting no one except the peoples of all places, wherever they're from. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten, from the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle Eastern, and Latin. Black, white, New York, you make it happen. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten, from the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle Eastern, and Latin. Black, white, New York, we make it happen. Questo era An Open Letter to NYC, una dichiarazione d'amore, un pezzo impegnato, come vedete, insomma, anzi come sentite, siamo passati da pezzi veramente ignoranti, da siamo partiti da You Gotta Fight for Your Right, siamo arrivati a An Open Letter to NYC, ovviamente perché il percorso della band è stato veramente di due decadi e ovviamente si cambia anche a livello personale, quindi da dei ragazzi, ne parlavamo un istante fa con Gigi, da dei ragazzi che interessava solo far casino a degli adulti che hanno preso delle posizioni politiche e le hanno anche espresse nella loro musica, hanno voluto fare delle sperimentazioni, quindi insomma facendo questa carrellata si viaggia anche in dei suoni differenti, che insomma la cosa apprezzabile. Poi io riguardo proprio all'album avevo una storiella tra virgolette, cioè proprio delle mie, da underground pusher sostanzialmente, da original vinyl pusher anzi, perché al suo tempo questo disco, come gli altri dischi dei Beastie Boys, l'ho acquistato in lotto, credo l'ho acquistato a circa 50 centesimi, ed era un disco che mi piaceva, però visto anche che valeva circa 50 euro, ho detto vabbè, lo metto su Discogs, chi lo vuole se lo prende, però me lo paga 50 euro. Quindi cosa è successo? Che mentre ero in ferie mi è arrivato un messaggio appunto su Discogs, tutto in ideogrammi giapponesi che neanche riuscivo a leggere, quindi ho dovuto chiedere al mittente di scrivermi in inglese perché non riuscivo a, effettivamente non sapevo leggere quei ideogrammi. Questa persona mi ha pagato sull'unghia i 50 più i 30 euro della spedizione con le poste. Cioè all'istante, io ho detto che costava 80 euro, un istante dopo mi è arrivata su PayPal l'accredito. Un signore appunto da Tokyo voleva assolutamente questo disco, io gliel'ho spedito come mio solito nel cartone della pizza, però pare che sia arrivato, quindi questo disco se lo sta godendo questo signore in Giappone. Quindi con questa storiella un po' antiqua di quando ho iniziato a vendere i dischi proseguiamo. Questo è l'ultimo singolo da To The Five Boroughs, si chiama Right Right Now Now. questo era Right Right Now Now. Passiamo ancora più avanti nel tempo, andiamo a un album particolarissimo uscito il 26 giugno del 2007, si intitola The Mix Up, il settimo album in studio, ed è interamente un album strumentale che ha vinto tra l'altro un Grammy Award come Best Pop Instrumental. Eh sì, perché appunto hanno deciso di fare questa sperimentazione senza rap, passare solo alla parte suonata. Del resto, insomma, come avete sentito, se la cavano bene con gli strumenti. Non vi avevamo detto, ma insomma è anche abbastanza importante da dire che nel 94 hanno suonato a Lollapalooza duettando con gli Smashing Pumpkins, quindi mica da ridere. Abbiamo scelto una strumentale in particolare che appunto sono tutte belle da viaggio, vi consigliamo di ascoltarle. Questa che abbiamo scelto si chiama Electric Worm. Questo era Electric Worm. Continuiamo con la nostra storia. Come tutte le storie, c'è la parte allegra e la parte triste. Arriviamo alla parte triste, purtroppo. Allora, questo appunto è un disco uscito nel 2007. L'album successivo, Hot Sauce Committee Part 2, uscì il 3 maggio del 2011. E giustamente mi direte, ma scusa, non dovrebbe esserci anche una part 1 prima di una part 2? Esatto, infatti c'era anche è stata realizzata anche la copertina, è stata anche diffusa, è stato annunciato che Hot Sauce Committee Part 1 sarebbe uscito ed era pianificata questa release nel 2009. Solamente che praticamente questa release si è posposta nel tempo indefinitamente. Infatti l'album non uscì mai. Perché? Perché praticamente MCA dichiarò di avere contratto appunto il cancro, un cancro che poi appunto lo porterà alla morte nel 2012, quindi un anno dopo, un anno e un giorno dopo, 4 di maggio, l'uscita di Hot Sauce Committee Part 2. E quindi diciamo sostanzialmente, avendo per Hot Sauce Committee Part 1 registrato un numero impressionante di pezzi, tanto da poter fare due album, il secondo capitolo inspiegabilmente era già chiuso, mentre invece la prima parte continuava a posporsi. Quindi, vista anche la malattia di MCA, uscì ed è tutt'oggi uscito solamente la parte 2, quindi uscita nel 2011 in maniera un po' atipica, però insomma diciamo i Beastie Boys ci hanno sempre abituati a queste cose qui. Abbiamo scelto due tracce molto importanti entrambe, una si chiama Make Some Noise e l'altra è Too Many Rappers featuring niente proprio di meno che Nas. Yes, here we go again, give you more, nothing lesser. Back on the mic is the antidepressor. Hell rock, no pressure, yes we need this. The best is yet to come in, yes believe this. Let go my echo while I flex my EO. Sip on Prosecco, dressed up to Kino. Sip my coffee playing Kino in the casino. Want a lucky number, ask Mike Dino. I'm on a competition like a flamethrower. My rhymes, they age like wine as I get older. I'm getting bold, the competition is waning. I got the ball and I see the lane in. We got a party on the left, a party on the right. We want a party for the left and right to fight. Rotary connection, take an MC stand, but leave the rap rejection. I'm rocking on a follow-up when I get pissed. You must attract a busy lift, a drink and you got lift. I'm just whipping when I catch MCs. It's time for wing clipping. I fly like a hawk, I'm Betty and an eagle. It's ego, sniff suckers out like a beagle. My ego is off and running and going, cause I'm about the best and if you're best and ask for it. Snitch your rat, you wear that jacket. How many rappers must get this? Give me 8 bars and watch me bliss. This I start to reminisce. Ooh, and I miss the real hip-hop with which I persist. Like rum and mojitos, bullets and banditos, lots of balls and soup, jackets and juke, just jokes. One for the history book. Nasty Nas, what's the word? Count it off on the hook. Let's go. One, two, three. Too many rappers and it's still not enough MCs. It goes three, two, one. NCA, Ad Rock, Mike D, see, this how we get it done. Like, ladies and gents, attention. Nas in the house with Beastie Boys, we can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. E too many rappers, troppi rapper, e forse avevano anche ragione. Continuiamo appunto con la nostra storia, perché i Beastie Boys nel dicembre del 2011 entrarono nella Rock and Roll Hall of Fame, quindi mica da ridere come cosa. Purtroppo appunto alla cerimonia non poté prendere parte MCA perché era troppo malato per prenderne parte, quindi il gruppo non performò proprio in rispetto della situazione dell'amico. Appunto Mike D e Eddie Rock lessero un discorso appunto scritto da MCA, e vista la situazione, Black Thought, i Ginkless Heroes e Kid Rock performarono dei medley delle loro canzoni, quindi in omaggio. E quindi diciamo, appunto, come dicevamo prima, il 4 di maggio del 2012 MCA morì a causa del cancro all'età di 47 anni, e da lì in poi sostanzialmente il gruppo si sciolse, perché appunto Mike D rivelò che era stata registrata nuova musica nel 2011, ma sostanzialmente tutte queste tracce non sono mai state rilasciate, e anzi neanche più il nome Beastie Boys viene utilizzato, perché appunto Mike D e Eddie Rock hanno continuato la loro carriera nella musica, ma non hanno più voluto usare questo marchio proprio per rispetto dell'amico scomparso. Noi adesso mandiamo Don't Play No Game The Tie Can't Win, sempre da Hot Souls Committee Part 2. Can't tell them all from where he's been. That's dangerous. questo era Don't Play No Game That I Can Win. È il momento delle curiosità, sicuramente il momento preferito da Gulli, che è quello che ci chiede sempre l'aneddoto. Allora, sicuramente una cosa che non abbiamo detto, ma che ha il suo perché, è che sostanzialmente quando i Beastie Boys erano una punk rock band, sono stati la band di supporto dei Bad Brains, dei Dead Kennedys, dei Misfits, quindi insomma non male, non male. E un'altra, sempre che riguarda la... lato tour, lato live, il Licensed to Ill tour, quindi il tour del primo disco, è andato benissimo sicuramente dal punto di vista degli ingressi, dal punto di vista dei biglietti venduti, perché fu un tour mondiale, però sostanzialmente la band venne coinvolta quasi sempre in risse e in arresti. La cosa più clamorosa è successa a Liverpool il 30 di maggio del 1987, in cui appunto si esibivano al Royal Court Theatre, mica da ridere, e appunto praticamente ci fu una tra il pubblico e la band venne appunto arrestata. Ultima curiosità, questa un pochino più i classici rumors, quelle robe che si dicono ma non si dicono, che poi diventano delle leggende urbane classiche proprio degli anni 90. Insomma, si diceva che praticamente il CD di Hello Nasty, se inserito nel PC, avrebbe provocato un virus sfasciando il computer. All'epoca insomma non era neanche un oggetto di così grande consumo, quindi era anche parecchio costoso, quindi era una leggenda che poi Beastie Boys smentirono. Arriviamo al momento remix, perché abbiamo due remix di due grandi hit da proporvi. Il primo è il remix di Buddy Movin, proprio appunto da Hello Nasty, registrato niente po' di meno che da Fatboy Slim, mentre invece l'altro è il remix di Too Many Rappers, un'uscita recentissima firmata Pulsar Uranio della Rap Caverna Posse. Per chi non lo conoscesse, avete sentito una sua produzione all'inizio della puntata, perché il beat non apprezzo. Questo remix di Too Many Rappers è incluso nella raccolta Remix Pacco, scritto P-A-C-K-O, che si può rintracciare sul canale YouTube dello Zami Pop Lab, e vi consigliamo di andare a sentire. Body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving. Body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, body moving, is rocking, interlocking, and up rocking, electroshocking. We are getting down, computer action to the robotic satisfaction. All of y'all get off the floor, have a ball, and get involved with. Came out rapping when I was born. Mom said rockin' to the break of Well, like a boy come in, open the coconut ocean. The sound of the music making you insane. You can't explain the people in this type of wild flame. And like a bottle of Chateau Neuf to pack bomb. Fight like one when I start to rap. Weenie body rocking, not perfection. Let me get some action from the back section. Body moving, body moving. Just to put on your swim fins, cause when it comes to cars, I'm known to swim. And that rock light up the place. And if you pull my card, you pull the ace. And if you ask me, turn up the bass. And if you play Defender, I could be your hyperspace. So, body moving, body moving. A1 sound, if it sounds so soothing. Body moving, body moving. Mic check. Rappers and it's still not enough MCs. It goes 3, 2, 1. MCA, Ad Rock, Mike D. That's how we get it done. Like, ladies and gents, attention. Nas in the house with Beastie Boys, we can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. Yo, I've been in the game since before you was born. I might still be MCing even after you're gone. Strange thought, I know, but my skills still grow. The 80s, the 90s, 2000s, and so on and on until the crack. Into the year 3000 and beyond. Stay up all night and I MC. I never die, cause death is the cause of the sleep. Because I'm back with the bang, boogie, oogie, oogie. Strawberry night of 23 like Shoogie. Oh my god, just look at me. Grandpa been rapping since 83. I'm supersonic like JJ Bad. Crazy ass shit pulling out the bag. Don't forget the tartar sauce, yo, cause it's sad. All these crab rappers, they're rapping like crabs. I have cars launch. Vagabond, Nas is the narcissist. My pockets are rotund, I'm no killer. But compared to you, I'm more realer. You ain't a shot to mobster or a drug dealer. A slug killer, you're not. Mafioso, no, you ain't got the cutthroat in ya. Beginner, I ain't tryna hear your racket. You work with police dog, you snitch your rat. You wear that jacket. Ha ha ha, when you rap, it's what's good days. Give me 8 bars and watch me bliss. This I start to reminisce. Ooh, and I miss the real hip hop. I foresee it's like rum in mojitos, bullets and bandidos, monster balls in suits, jackets and truth, just yours. One for the history book. Nasty Nas, what's the word? Count it off on the hook. Let's go. One, two, three. Too many rappers and it's still not enough MCs. It goes 3, 2, 1. MCA, Ad Rock, Mike D. That's how we get it done. Like, ladies and gents, attention. Nas in the house with Beastie Boys, we can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. Straight out the I brought it in Broadway. I was the project hallway. Dual tape recorder, lacing oratorios all day. I'm just getting started on this beat. This is foreplay. And when the song finished, I can sing along with us. By the way, I have a strong fetish for Christian Louboutin steppers. I hear Russian blondes the wettest. But anyway, y'all better pay homage to my fellas. And that's what's on my mind. And the rhyme, who's next up? One D, the man of mystery. History in the making. And now we're taking titles, awards, and accolades. Skew the competition as I sharpen my blades. We come together like peanut butter and sandwiches. Like pen and paper, like Picasso and canvases. Rocking stadiums to shitty bars. Go back in time, send out facts from my car. One, two, three. Too many rappers and it's still not enough MCs. It goes three, two, one. MCA, Ad Rock, Mike D. That's how we get it done. Like, ladies and gents, attention. Nas in the house with Beastie Boys. We can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. Yo. E con questo super super super remix, veramente bello, discutiamo con Gigi questo remix di Too Many Rappers che sostanzialmente non c'entra nulla con l'originale, però suona, suona da Dio, di Pulsar, vi consigliamo appunto, vi ripetiamo, ascoltatevi il remix Paco su YouTube, sul canale dello Zami Pop Club, perché merita. Noi abbiamo sostanzialmente finito la nostra puntata dedicata ai Beastie Boys, la vogliamo dedicare appunto questa puntata alla memoria di MCA e anche alla memoria di Chadwick Boseman, che è scomparso questa notte, era l'attore protagonista del film Black Panther, appunto dedicata a un supereroe nero, scomparso a 42 anni di cancro. Un grande saluto a, come nostro solito, alla Milano Militante, ai compagni di Milano Sud, ai compagni di Radio ZM. Come iniziativa vi vogliamo segnalare che da venerdì 11 a domenica 13 settembre, quindi tra due weekend, ci sarà la consueta ABBA Cup, ormai 12 anni dalla scomparsa di ABBA, quindi per tenere vivo il suo ricordo. E quindi diciamo, questo è appunto un evento, poi sicuramente ne arriveranno altri, quindi state connessi sulle pagine Facebook che spingeranno i prossimi eventi, e poi insomma sentiteci, ascoltateci per avere news, novità in merito. Noi appunto, come nostro solito, concludiamo con un pezzo italiano. Abbiamo scelto un pezzo abbastanza di ispirazione Beastie Boys dall'album Musi, uno dei gruppi più ignoranti penso di sempre del panorama italiano, direttamente da Sano Business, la cricca dei balordi. Questo pezzo si chiama Mpua. Mano, cioè che tu ce l'hai e noi non ce l'abbiamo, strano? Sì, il tuo stile non è male, peccato ti rimanga una sola corda vocale. Capisci poi come la gente si allontana, che sembri un ubriaco sulla metropolitana. Tiene la savana, vita d'animali, cazzo ci si sbrana. Spingo le mani tanto avanti che questo non è più rap, è la WWF. Assalto la metropoli, mi distingo, sul quadrato il mio codice non è estinto. E spingo fuori dalle piclotide, testi nuovi, strofe storiche, memorizzale. Guardi me, vuoi espandere il tuo dominio? Io sono un rapper d'acciaio, tu d'alluminio. Io Tarzan urbano, parlo agli animali, merda ci capiamo. Come ti chiami? Rido il mio nome ragazzo, adesso che lo sai per te non cambia un cazzo. Mi sento il re della giungla, fanculo d'uomo, sto sventolando da una guglia. Occhi fuori dalle orbite, nuotare dentro fiumi dalle acque troppo torbide. Vite morbide col cazzo, vite dure, tipini fini, siamo tagliati con la scure. Mi hai chiesto? Quanti rapper possono fare questo? Wow! Sempre con noi fratelli! Wow! Preventi pugni in aria! Wow! In città, in città! Non hai mai provato un urlo da lasciarti senza fiato? Wow! Sempre con noi fratelli! Wow! Preventi pugni in aria! Wow! In città, in città! Banale nel cielo per chi griderà più forte! È il mio vangelo, me lo porterò alla morte! Scriviamo versi, facciamo versi, chiediamo di ripeterli alla gente nei concerti. Chi si diverte, chi è basito al momento, chi lo capisce è un punto di riferimento. Adesso dimmi che cazzo devo spiegarti, cosa penserà mia madre, devo preoccuparmi? Allora dammi un buon motivo per non farmi, dammi una cazzo di ragione per cambiare, dammi del bastardo, sì. dammi tutti i soldi, dammi le tue scarpe, dammi 100 carte. Siamo selvaggi, costretti a civilizzarsi, ma un domani parleremo da saggi. Oggi creiamo trend e chi ne fa tesoro trova nuove strade di lavoro, oppure chi si sputtana e riproduce noi. Da ieri che ci provava, adesso fa il b-boy. C'ho foga, figa, do merda ai miei riga, sotto pressione come il muro di una diga. Fuori chi grida coi fratelli nel posto, c'ho un cazzo di urlo come mucca d'oslo. Non mi hai mai chiesto quanti rapper possono fare questo? Wow! Siete con noi fratelli! Wow! Prendete i pugni in aria! Wow! In città, in città! Non hai mai provato un urlo da lasciarti senza fiato? Wow! Siete con noi fratelli! Wow! Prendete i pugni in aria! Wow! In città, in città! Sono il critico, lirico, rap individuo. Voglio bruciare tutto e non lasciare nessun residuo. Fiamme da inferno, tuoni e sette. Kamikaze in città con un 747. Balordi di rottatori islamici, avanguardia hip hop, ribaltiamo i canoni. Siete veramente pronti a resistere agli affronti, a far saltare i ponti? Sentitemi tutti, è un sabotaggio. Avviate procedure per il vostro salvataggio. La mia merda è Las Vegas. Non passi in mezzo e dici non mi frega più una sega. Luce e colori e poi tosti neon. Tenete i soldi in aria per la merda che creo. Vai così, siamo rap slot machine. Giochiamo d'azzardo noi del team Sono Beast. Questa è roba da urlo. Ho un talento per farlo e sono qui per darlo. Scommetto tutto, punto sul mio rap. Dovrei forse non crederci. Perché? Ti sei mai chiesto quanti rapper possono fare questo? Siete con noi fratelli. Ti sei mai chiesto quanti rapper possono fare questo? Un pezzo in stile Beastie Boys con cui noi concludiamo, ma non concludiamo. Come al solito abbiamo un sacco di altra musica, tante altre canzoni dei Beastie Boys che manderemo appunto a, alla fine della puntata. C'è anche l'altro pezzo in lista, perché c'è stato, come dire, una sorta di dubbio, eravamo in dubbio quale pezzo era più adatto, un Pua oppure Cash in Black, che ha sempre il suo perché, perché riprende il sample di Back in Black, quindi come il secondo pezzo dei Beastie Boys che avevamo proposto all'inizio. Quindi c'è questo e poi ci sono tutta una serie di altri pezzi dei Beastie Boys che vi invitiamo a sentire perché sono fighi. E quindi lanciamo il beat non a prezzo. Io ringrazio chi ci ha ascoltato, ringrazio il mio compagno di viaggio Gigi Proiettili. Bella, riga. Salutiamo tutti i compagni all'ascolto, ascoltateci in podcast. La prossima puntata, lo possiamo annunciare, sarà dedicata a un grande duo, Black Star a.k.a. Mos Def e Talib Kweli. Ci sentiamo presto. Yo yo yo yo. Bella, a presto. Black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black